quando sentite la sigla dilungarsi un po', motivi di collegamento e motivo tecnico per quanto riguarda questa diretta e la realtà di Itaca, di cui ho dato qualche anticipazione anche lessicale in precedenza prima della pubblicità, ricordando un appuntamento in jazz che sarà per domani alle ore 19 a Brisighella con uno dei protagonisti, anzi due protagonisti, il batterista Andrea Grillini e il sassofonista Piero Bittolo Bon. Ok, questo è uno degli appuntamenti, però vediamo un po' tutto l'insieme, tutta la realtà di Itaca, e lo facciamo con Simona Zedda qua al telefono con noi. Buongiorno Simona, benvenuta. Buongiorno a tutti e a tutti, grazie di avermi ospitato. Ma grazie a te. Siamo arrivati un po' lunghi col Breakfast Club, perché è già partito da un po' Itaca, è arrivato... Sì, soprattutto, okay. Sì. Però a Bologna è partito il 13 settembre. Esatto, quindi però è molto esteso. Però ci tenevo, anche perché sì, la mia attenzione è arrivata a questo incontro in musica assolutamente interessante con Andrea Grillini, Piero Bittolo Bon, poi siamo a Brisighella. Insomma, ci puoi dire, così come riassunto delle puntate precedenti, qualche filo conduttore di Itaca? Allora, riassunto delle puntate precedenti, io, il filo conduttore, noi abbiamo sempre un tema nazionale che guida la coprogettazione di ogni tappa del festival, perché forse l'hai già detto, ma il festival nasce a Bologna, ma è stato adottato da diversi territori dal nord a sud Italia, che organizzano, sono autosufficienti, ognuno di questi territori organizza il proprio festival, nel caso anche di Brisighella, che diciamo fa un po' a capo alla tappa di Ravenna, anche se sì, c'è un po' di disordine fra i confini, ma ci piace anche questo. E quindi, per esempio, a Bologna è partito il 13 settembre, finirà il 13 ottobre con degli off, quindi ci sarà un evento il 15, uno il 19 ottobre, il filo conduttore è il tema nazionale, come dicevo, sono le radici in movimento, questo è l'anno del turismo delle radici, per noi era un po' riduttivo coprogettare gli eventi con questa tematica un po' restrittiva, quindi gli abbiamo dato questo respiro molto ampio per riflettere sulle radici, che non sono per forza legate a uno Stato, una nazione, ma ognuno può ritrovare le proprie radici anche in base ai propri valori, a quello che crede, alle proprie idee, alla terra in cui è emigrato e si è legato, e quindi gli abbiamo dato questo filo conduttore molto molto interessante, ovviamente i valori del turismo responsabile, cioè quelli secondo cui si può fruire di un territorio, si può godere di un territorio, si può vivere un territorio essendo rispettosi dell'ambiente, rispettosi delle comunità locali, a contatto con esse. Ciò che facciamo è organizzare tanti eventi, soprattutto itinerari in bici a piedi, ma come ricordavi tu, eventi artistici, performativi, con delle reti locali, quindi proprio a contatto con la comunità locale. Certo. Quindi questo è un po' il filo conduttore di tutti gli eventi, ecco. E intanto aggiungo anche che potrebbe essere Itaca, è ovvio che c'è il chiaro riferimento, o almeno viene in mente nell'immediato la famosa Itaca di Ulisse e l'Odissea, ma Itaca in bolognese è sei a casa. E quindi, certamente, sì. Cioè, su questo, diciamo, c'è questo parallelo, ti chiedevo, Simona. Sì, c'è questo parallelo perché da un lato ovviamente viene evocato, viene fatto riferimento al viaggio per antonomasia, che è il viaggio del nostro, certo, amico Odisseo, del nostro amico Ulisse, ma ovviamente il nostro festival nasce per riflettere sull'idea di viaggio, sui diversi tipi di viaggio, quindi sia quello che si fa per scoperta, per piacere, per scoprire nuovi territori, ma anche quello a cui molte persone sono costrette o scelgono di fare in cerca di nuove opportunità e una vita decorosa, o per sfuggire da delle situazioni disumane. Quindi c'è sempre stato questo doppio significato, e riflettere sul significato di casa, quindi che cosa significa, certo, essere a casa. Quindi questo sicuramente ha guidato le 16 edizioni che ci hanno portato fino a qua, questo doppio significato, quindi questa riflessione sul viaggio nelle sue molteplici sfaccettature. Ovviamente noi ci concentriamo molto su l'aspetto, noi almeno qua a Bologna, sull'aspetto sicuramente turistico, considerando anche chi viaggia, chi viene ospitato nel territorio, nel bolognese, come un cittadino temporaneo, quindi che deve godere deve godere anche delle responsabilità di cui dovrebbero godere anche i cittadini, e dovrebbe essere, riflettiamo sul fatto che il territorio dovrebbe essere a misura di cittadino prima di tutto e poi di conseguenza per fruibile per un turista. Quindi diciamo, se il turismo è un ottimo tema, sì, certo, sì, per riflettere su molti temi della città, perché se ci pensiamo il turismo è una metafora di della nostra vita quotidiana. Un turista abita, alloggia, dorme, mangia, si muove. Quindi noi riflettiamo sul turismo, ma in realtà stiamo riflettendo su dei temi di vivibilità dei luoghi. Sì, e spesso anche in cui i turisti entrano in conflitto, tra l'altro, con le comunità locali. Quindi c'è anche questo aspetto che alle volte che andrebbe indagato, ma ovviamente noi il tempo di vita che è limitato, ci sarebbero tante cose da dire, aspetti, certo. Esatto, certo. Allora, ecco, è questo fino al 13 ottobre, quindi abbiamo ancora una settimana, poco più, per seguire. Sì. E la programmazione si può consultare? C'è un sito, piattaforme digitali? Assolutamente. Ci puoi dire? Il sito è www.festivalitaca.net, una coda molto poco usuale ultimamente, quindi .net, ricordatevi, lì ci sono tutti i programmi, c'è quello di Bologna ovviamente, ma ci sono anche i programmi delle altre tappe, sono assolutamente consultabili. A Bologna questo fine settimana, se volete venire, c'è un bellissimo festival di poesia in cammino lì a Lizzano, nei borghi di Lizzano in Belvedere, Poesando, tra l'altro con molti artisti e molte guide escursionistiche, c'è questo bellissimo questa bellissima ibridazione tra natura e arte, e domani invece siamo a Modena, perché ci piace molto percorrere le periferie cittadine. Infatti oggi siamo al Pilastro, io in questo momento mi trovo al Pilastro, domani saremo a Modena per percorrere la zona nord di Modena. Bologna è sfociato anche a Modena, è arrivato anche a Modena, quindi siamo nella periferia nord, vicino alla stazione di Modena, una periferia molto interessante, quindi andremo a visitare anche queste architetture popolari. Come tutte che ci piacciono molto. Sì, hanno delle particolarità sì, da non trascurare. Del resto sì, le radici sono in movimento. È la 16ª edizione sì, del Festival del Turismo Responsabile Itaca. Grazie alla voce di Simona Zedda che ne ha dato i contenuti e qualche anticipazione. Io ti auguro una buona giornata e anche a voi tutti e tutte. Una buona vigilia di weekend. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Io poi insisto a dire che è vigilia di weekend, ma oggi con il patrono è già weekend. Oh yes! Assolutamente. Anche noi ci teniamo a fare colazione assieme. I'm bringing quasi prima puntata di Jazz Live dalle 11.30. Allora ne anticipiamo un po' per quanto riguarda il jazz. Oggi l'approfondimento sarà legato al Torrione. Dal 10 ottobre, dopo la conferenza stampa di Bologna Jazz Festival, faremo l'approfondimento sul Festival Jazz Felsineo, ieri iniziato ufficialmente con il bellissimo concerto di Manuel Wilkins. Ma a proposito di jazz e di ricerca, in questo caso sempre all'interno di Itaca, sabato 5 ottobre alle ore 19 a Brisighella, Arena Spada, Radici in Movimento, Relazioni e Rituali Musicali dal Jazz alle Foreste del Centrafrica. Ne ho parlato con Andrea Grillini, che assieme a Piero Bittolo Bon e un altro musicista di cui ci darà motivo di conoscenza lo stesso Andrea, batterista nel contemporaneo e non solo, molto curioso, molto attento, non si direbbe così, perché lui è molto un compagnone e molto brillante, che dice: ma come, di solito i musicisti intellettuali sono tutti così un po' impomatati, un po' rigidi. Non è il caso di Andrea, per cui ricordiamo che sabato 5 ottobre, cioè domani alle ore 19 a Brisighella, Arena Spada, Radici in Movimento, Relazioni e Rituali Musicali dal Jazz alle Foreste del Centrafrica. Intanto è nella rassegna Itaca 2024, sarà sabato 5 ottobre alle ore 19, Brisighella, Arena Spada. Siamo con Andrea Grillini, che sarà tra i protagonisti di questo concerto, e non solo, perché vi è anche videomapping e quant'altro. Radici in Movimento, Relazioni Rituali Musicali dal Jazz alle Foreste del Centrafrica. Buongiorno Andrea. Ciao a tutti, buongiorno. Ci puoi dire qualcosa di più di questa immediata descrizione che io ho portato? Ma che in realtà racchiude poi il sugo della storia, quello lì, nel senso che stiamo facendo, diciamo, questo concerto in relazione alle radici, che sono, diciamo, un lavoro pensando a come gli strumenti musicali possono avere una relazione con le radici. Quindi, visto che le radici sono in continuo movimento e non sono solo strutture e fondamenta, ma sono strumenti per esplorare, conoscere, nutrirsi e comunicare. Quindi la profonda indagine del suono e del ritmo, che siamo di sax e batteria, cioè sono due strumenti che, diciamo, da un sacco di tempo hanno questa continuità nell'esplorare, insomma, vedere il linguaggio che attraverso il jazz, attraverso la musica, diciamo, del Centrafrica. C'è una ricerca, diciamo, profonda del linguaggio, ma anche dello strumento in sé, perché comunque io avrò, diciamo, una batteria preparata con dei sensori, che adesso detta così fa un po' ridere, però insomma avrò dell'elettronica anch'io, attaccata, diciamo, alle pelli dei tamburi. E con te ci sarà Piero Bittolo Bon. Esatto. E un altro musicista, Alberto Novello, che farà videomapping con laser. Ecco, e su cui mi vorrei soffermare. E ho pensato di andare un po' su Saturno. Ok, come Sanra. Esatto, Sanra quel che Sanra, in realtà. È molto bello fare questa cosa con lui, che tra l'altro è un musicista elettronico pazzesco, che per la serata avrà, diciamo, questi laser che reagiranno in base a quello che noi suoneremo. Quindi c'è un continuo dialogo anche qua. Speriamo di creare una bella situazione, ecco. Una bella atmosfera tra note e visioni, con il filo conduttore delle radici e l'interazione con le sonorità e le ritmiche dal continente nero, che del resto, esatto, è ispirazione continua. E sarà. E oltretutto avete portato anche un disco con ispirazione. Abbiamo un disco in uscita per l'etichetta di Filippo Vignato, Ora Record, che siamo in attesa, diciamo, delle copie fisiche. Quindi quel giorno lì, diciamo sabato, prendiamo, di chi è interessato, prendiamo già gli ordini dei vinili, perché abbiamo fatto solo vinile. Bravi! So che ti piacciono i vinili, William, infatti l'abbiamo fatto apposta così. Certo, per William. Solo per William. No, abbiamo registrato anche in uno studio molto bello a Livorno, abbiamo fatto proprio un lavoro sul suono molto, molto profondo, quindi sì, vediamo. È un lavoro completo, come ho detto, e soprattutto che dà uno sguardo in avanti, pur mantenendosi già dal supporto a quella che è una realtà di tradizione molto importante. Io sì, ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione. Ci vediamo tutti a Brisighella il 5. Se piove il concerto si farà lo stesso. Okay. Lo facciamo all'interno. Ah, ma darò indicazioni poi io, magari più precise. Però ci sarà anche la Prolocoli, insomma, che indicherà. Quindi comunque si farà il concerto sicuro, anche all'interno, in una situazione interna. Bene, buon viaggio verso Brisighella e va poi bene, avremo modo di ritrovarci. Grazie, grazie Andrea. William, grazie a tutti, buona giornata. Ciao. Ve l'ho detto che Grillini è da balotta, come si direbbe a Bologna, con sì, Sanra, quel che Sanra è stato veramente oltre che grandissimo talento, molto curioso come musicista, altrettanto Piero Bittolo Bon, che sentite qui ai fiati per quello che sarà il concerto di interazione con le radici in movimento dal jazz alle foreste del Centrafrica. Sarà Brisighella. Sapete che Brisighella, oltre a essere molto molto bella, molto particolare, ha questa via che è la via degli asini, così si chiama, hai capito? È una via al coperto molto particolare, molto... qua dove c'è il portico, esattamente. Ah, è sì, una via, sì, coperta. Via coperta, sì, è una, sì, via, ho capito, la via degli asini mi è sempre piaciuta, non so mi ricordavo perché. Si chiama così. Sempre, boh, sempre. Beh, sono carini gli asini, molto molto. Infatti mio padre, forse per farmi un complimento, il mio povero papà diceva sempre: non sarai mai un cavallo, resterai sempre un asino. Io vi ringrazio tanto, come avrete intuito dalla mia voce, non è che oggi sia informissima, in più ho approfondimento in prima puntata con Alfredo Pasquali e Jazz Live, per cui io ringrazio e auguro un buon percorso di weekend, visto che oggi abbiamo abolito il termine vigilia di weekend in quanto 4 ottobre, a Denis Del Dotto, grazie Denis. Grazie a voi. E ad Anna Cesari. Grazie. Estremo Oriente. E pensate, in effetti lei si muove in bicicletta. Sì, anche oggi. Vi aspetto alle 11.30 con il Jazz Live e per le mattiniere e i mattinieri ovviamente vi aspetto alle ore 7 per la giornata di lunedì. Detto questo, spazio alla pubblicità, liberi dentro e poi rassegna stampa. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao. Un buon ascolto con Radio Città Fujiko.